pensa, va sfumando a nero questa cazzo d'esistenza, e gira nella testa dalla sera alla mattina lo stesso ritornello. Sono un morto che cammina tra gli scheletri eleganti, in vera pelle umana, divi sulla passerella della vita quotidiana. Nessuno uscirà vivo, come diceva Jimmy, ecco l'origine profonda di tutti i nostri drammi. E intanto tu vivi inventando motivi per dar fuoco alle lettere d'addio che intanto scrivi. Aspetti, non sai cosa aspetti, e pensi agli aspetti positivi che senz'altro ci saranno. L'arrivo della falce, ecco cosa stai aspettando, solo che non sai il come, il dove, neanche il quando. Ma se ad ogni istante la falce qui mi sfiora, non ho tempo da perdere e voglio tutto ed ora. Senza orario, senza poter esprimere l'estremo desiderio. Il tuo destino esiste pure se mo non lo vedi, e il dopo non sarà quello in cui tu ora credi. Se questo fosse il tuo pensiero di ogni giorno, non berresti le cazzate che ti vendono qui intorno. Ottimismo obbligatorio, la ricerca del sereno. Il mio bicchiere è sempre mezzo pieno di veleno. Non andresti contento a guardare le vetrine. Non puoi vendere cazzate a chi pensa alla sua fine. La legge è universale e non la puoi cambiare. La sentenza è categorica, sei nato per crepare. Ormai sei già fottuto, ormai non hai più scampo. Il boia affila le lancette, il boia che tu chiami tempo. Ma se ad ogni istante la falce qui mi sfiora, non ho tempo da perdere.